Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Francesca Comencini, regista del film Il tempo che ci vuole, al cinema da giovedì 26 settembre 2024. Ben trovata. Ciao, buongiorno, ben trovato. Cosa hai raccontato? Ho raccontato un padre e una figlia, veramente una relazione attraverso tante stagioni della vita, attraverso la memoria, partendo dalla mia esperienza personale, ma cercando di essere più universale possibile. Da dove è partito tutto? È partito dal momento in cui c'era lockdown, c'era la pandemia e tra le tante cose che ci angosciavano c'era questa immaginazione delle sale di cinema chiuse e di una possibile fine del cinema, tra le tante cose, perché si caratterizza sia nel farlo e sia nel vederlo, perlomeno delle sale, con l'essere misti tanti e anche un po' appiccicati. E quindi è partita da questa specie di angoscia di dire ma forse qualcosa che diamo per scontato, che va da sé, che è così indissolubilmente legato alle nostre vite come il cinema, potrebbe andare perduto. E da questa esperienza solitaria del lockdown ho cominciato a mettere in fila, proprio come si ponevano nella mia memoria, i corti come un teatro sempre aperto in cui convochi dei personaggi, in quello che per me incarna più di tutto l'idea del cinema, che è la relazione con mio padre, ma con l'idea poi di non fare un diario o un film autoreferenziale. Sembra assurdo perché è un film molto personale, ma che ho cercato di fare il meno autoreferenziale possibile, ma proprio con l'idea invece di fare un film che celebra la fantasia, l'immaginazione, la favola, anche la ribellione, è come un atto d'amore, proprio per parlare di una relazione così importante. Come hai scelto i tuoi interpreti? Fabrizio e Pone, ho sperato che lui scegliesse me, perché è un attore famosissimo, importantissimo e che adoro e che mi sembrava giusto, perfetto per questa parte, perché lui riesce a fare qualcosa che amo molto, che è un lavoro molto profondo, molto molto verticale, di dentro i personaggi, però anche con grande delicatezza e in maniera molto sottile, mai narcisistica, mai per vedere. E gli altri due personaggi, che sono una bambina e una giovane donna, le ho scelte con il procedimento più classico, perché erano entrambi esordienti per me. Poi Maggiora Vergano ha esordito, come io quando facevo il cast, non lo so, perché ha fatto il personaggio della figlia nel film di Paola Cortellesi. Le ho scelte cercando di conoscerle attraverso dei provini e anche attraverso, come il mio metodo un po', cioè che comprende sia dei provini su parte e in particolare nel caso di una bambina invece delle improvvisazioni e della curiosità per lei chi era, per farla giocare più che recitare. Com'è stato il lavoro con loro? Il lavoro con gli attori, come definisce appunto Fabrizio Gifuni, un atto di psicomagia. C'era qualcosa in cui si doveva parlare anche poco, ci siamo parlati anche poco, ci si capiva subito e sono riusciti a incarnare delle fasi della vita, soprattutto quelle che riguardano la fragilità, per quello che riguarda Romana una fase di tossicità della protagonista, per quello che riguarda Fabrizio una fase della malattia, per quello che riguarda il padre. E questa è la cosa di cui sono più riconoscenti, senza l'ombra di uno stigma, al tempo stesso con una precisione, anche con un appropriarsi di queste condizioni come loro sono, non fare appropriare i personaggi da queste condizioni, che poi è quello che getta lo stigma, sei drogato, sei matto, sei vecchio. Li hanno messi dentro di loro, hanno fatto un lavoro da questo punto di vista, una parola di cui si abusa, però un po' magico, quindi abbiamo lavorato così, facendo circolare questa energia tra noi tre e anche con la bambina, un po' così, anche se in maniera diversa. Lei incarna il momento per l'immaginazione, per la fantasia, e quindi lei è più del gioco che è stata trascelta. Che uscita è? È uscita, per quello che riguarda il mio cinema, grande, è attribuito da 01, vediamo, è il tempo che ci vuole. Ecco, questo titolo? È una battuta del film, perché a un certo punto la figlia chiede al padre quanto tempo ci vorrà, quanto tempo dovremo stare, e lui gli dice il tempo che ci vuole. Fa parte però anche della genesi di questo film, mi ci è voluto molto tempo per riuscire a farlo. Il film Il tempo che ci vuole al cinema da giovedì 26 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Francesca Comencini. A presto! Grazie a voi, ciao, grazie, a presto! Con la regista Paola Randi per presentare il suo film La storia del Frank e della Nina al cinema da giovedì 3 ottobre 2024. Ben trovata. Ma grazie, grazie di avermi invitato, sono molto felice di essere qua. Raccontiamo un po' cos'è questa storia. È la storia di tre ragazzi che in qualche modo cercano di affrontare la realtà, insomma, con la loro immaginazione, con l'amicizia, forse tra di loro, perché la storia del Frank e della Nina ce la racconta in realtà il Gollum, che è un ragazzo che in fondo, diciamocelo, non parla, è muto, e noi però invece sentiamo la sua voce, i suoi pensieri, o insomma il suo mondo, e quindi decide di raccontarci la storia di questi due personaggi, che sono due personaggi per lui importantissimi. Cercheranno di realizzare dei sogni, penso che la Nina, che ha una situazione molto difficile, capisce a un certo punto che per diventare liberi e indipendenti bisogna studiare, e quindi chiede al Frank, che è un personaggio misterioso di cui non si sa quasi niente, tranne che è uno che deve studiare, tant'è che vende i compiti fuori dalle scuole, chiede al Frank di prepararla per l'esame di terza media, che non era ancora riuscita a fare, a prendere insomma il diploma. Però insomma, per la vita di Nina, che ha un marito complicato e violento, 16 anni e una bambina, studiare è una faccenda molto complicata, può essere addirittura pericolosa. E quindi che cosa succede? Che loro devono riuscire a fare questa cosa nonostante tutto. E Gollum ovviamente è inseparabile tra con loro. Riusciranno nell'impresa di forgiare la realtà e trovare il loro posto nel mondo, oppure la realtà avrà la meglio su di loro? Questo bisogna capirlo, insomma, vedendo il film. Come nasce tutto? Nasce perché io sono nata a Milano, cresciuta a Milano, ormai sono tantissimi anni che sono a Roma, però insomma, proprio perché sono passati tanti anni, pensavo fosse arrivato il momento di raccontare un po' la mia città. Anche perché secondo me ci vuole un po' di distanza dalle cose per riuscire ad avere un punto di vista interessante, no? Non troppo influenzato dalla vicinanza, dalla prossimità. E allora a questo punto non potevo che raccontare la mia città narrando di adolescenti, perché la parte più importante della mia vita milanese è proprio stata l'adolescenza e la prima giovinezza, che è un'età bellissima secondo me, perché è un'età dove uno è una spugna, assorbe tutto quello che gli accade intorno, si forma, ma soprattutto crea delle amicizie che sono come delle famiglie alternative, oltre a quelle di sangue, che sono delle amicizie che spesso sono determinanti per la propria formazione, per il proprio futuro, ma anche che magari restano per tutta la vita. E quindi insomma, ecco qua, per gli adolescenti, per i giovani, la città è una città anche come Milano, che è così particolare, diventa una terra d'avventure. Come hai scelto le tue interpreti e i tuoi interpreti? Devo dire che i miei ragazzi sono meravigliosi, sono molto fiera del mio cast. Abbiamo fatto un cast da cui è venuto fuori, per esempio, Gollum, ovvero Gabriele Monti, che è la prima volta che fa un film, quindi esordisce con questo film, che ha fatto un provino veramente mozzafiato, cioè straordinario, lo vedrete. Poi abbiamo Samuele Peneggi, che invece aveva fatto una parte in Rapito di Bellocchio, e che ha fatto anche lui un provino dando delle sfaccettature veramente intense, fragili e tridimensionali al personaggio del Frank. E poi Ludovica Natti, che interpreta Nina. Ludovica Natti era la lila bambina dell'amica geniale, per capirci, è cresciuta, adesso ha appena fatto 18 anni, nel film ne aveva ancora 16 quando abbiamo girato, e devo dire che è stata ed è un'attrice eccezionale, veramente bravissima, e quindi dall'inizio avevo pensato a lei per il personaggio della mia, perché è proprio perfetta. Poi ho avuto la fortuna di avere una serie di amici e di amiche che hanno deciso di salire a bordo, diciamo, quindi da Alessandra Casella, Margherita Di Rauso, Anna Fersetti, oppure per esempio abbiamo avuto anche una partecipazione speciale, oltre a quella di Dave Seche, c'è stato meraviglioso Bruno Bozzetto, che è uno dei miei idoli proprio numero uno e che ha accettato di fare per la prima volta una parte nel mio film. Tra l'altro è stato abbastanza divertente perché per riuscire a convincerlo gli ho detto: senti, ma ci sarebbe questa parte che sarebbe perfetta, ti andrebbe? E lui mi ha detto: ma sei matta? E io ho detto: beh sì, certo che sono matta ovviamente, però la cosa che ti volevo dire è: ti va? E lui mi ha detto: senti, io non ho voglia di fare figuracce dato che non ho mai recitato, mi devi fare un provino. E quindi di conseguenza sono andata a fare questo provino, solo che il provino è consistito in lui che mi ha insegnato a ballare il foxtrot, perché lui il foxtrot lo balla benissimo. Nella storia, su quali elementi hai voluto concentrarti? Milano è una città di sognatori, cioè è fatta a cerchi, no? Ed è fatta in maniera particolare, nel senso che ha un cuore, e poi oltre all'ultima cerchia ci sono non solo delle periferie, ma sono vere e proprie cittadine in cui vivono tutte quelle persone pendolari, no? Che si alzano la mattina o la sera a seconda del turno che hanno e vanno a nutrire il centro della città. Quindi è una città che è costruita dai sogni proprio di tutte queste persone che in passato venivano da tutti Italia, adesso da tutto il mondo, e che vanno lì all'inseguimento di una vita migliore, del progresso, del futuro. E questa cosa qua, secondo me, è l'anima veramente romantica della mia città. E questa, insieme al fatto che la città è come un castello, soprattutto adesso che hanno costruito questi palazzi così alti, tutti questi grattacieli bellissimi, e intorno c'è la nebbia. Se uno vede la foto dal satellite, c'è una foto interessantissima con la Lombardia tutta piena di nebbia e in mezzo un buco, e il buco è Milano. Quindi è proprio una cosa da castello delle fiabe, è una conquista andare verso la città. E quindi ecco che i nostri personaggi, i nostri protagonisti partono da Sesto San Giovanni, dove tra l'altro ci sono delle cose bellissime. Per esempio ci sono quest'area industriale bellissima della Falck, che è archeologia industriale, perché insomma Milano è una città dove anche un po' il lavoro è una cosa sacra, c'è una sorta di sacralità del lavoro, e quindi ci sono queste cose che sono come delle cattedrali, che diventano il luogo che accoglie e protegge da un certo punto di vista i nostri protagonisti. E poi ci sono dei quartieri di Milano legati a un certo tipo di Milano, cioè anche lì alla Milano dei lavoratori, c'è Cutiotto, che era un quartiere super innovativo costruito per i ferrovieri, perché Milano è anche un luogo dove si sperimentano e dove si sono sperimentate delle architetture utopiche fatte per la gente in maniera da garantire tutta una serie di cose di progresso, di futuro. E quindi racconto una Milano anche con l'Ortica, per esempio, che richiama, non so, anche degli echi di quel pezzo di Milano che mi sta a cuore, in cui mi riconosco: Dario Fo, Franca Rame, Gaber, Iannacci. Cioè quel pezzo di Milano che ci ride sopra, che è proprio una delle anime fondamentali della città. Il film La storia del Frank e della Nina, al cinema da giovedì 3 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Paola Randi. Alla prossima! Grazie mille! Con Massimo Danolfi e Martina Parenti, registi del documentario Bestiari, Erbari, Lapidari, in tour nei cinema da sabato 5 ottobre 2024, ben trovati. Ciao. Ciao, ben trovati a te. Che cos'è questo lavoro? Un film lungo, di 3 ore e 25 minuti, è un viaggio in tre regni, nel mondo animale, nel mondo vegetale e nel mondo minerale. Sono tre dispositivi di messa in scena diversi, il cinema documentario. Il primo è sostanzialmente un film d'archivio, ma diegetico. Il secondo è un film di osservazione poetica. E il terzo è un film industriale, emotivo, sentimentale. Come nasce il progetto? Il progetto nasce nel 2020, dopo aver presentato Guerra e Pace a Venezia, e qui era l'autunno. Ci siamo messi a pensare a quale progetto avremmo voluto fare. Però c'era ancora il Covid nel 2020 e l'idea che avevamo era quella di fare un film piccolo, con una durata standard e tutto ambientato nella città, perché non c'era possibilità di muoversi, il mondo era ancora molto chiuso. Per cui abbiamo immaginato un film, esatto, che parlasse di animali e di piante all'inizio, piante perché era da tanto tempo che ci trullava nella testa l'idea di fare un film sulle piante, e di animali perché c'era stata un'occasione, ogni tanto si filma anche a esatto, per le occasioni. L'occasione era stata che dal veterinario vicino al nostro studio erano ricoverate due tigri di zoo, erano state rifiutate dalla mamma alla nascita e quindi avevano preso la polmonite e stavano dal veterinario. Per cui abbiamo messo insieme questo primo bestiario con l'erbario che avremmo voluto fare, a questo abbiamo aggiunto un lapidario, ma era un più piccolo, molto legato alla città. Man mano che il mondo ha riaperto e che noi abbiamo cominciato a studiare, il film è diventato molto molto più grande. In che modo avete messo in relazione le vostre immagini con il materiale d'archivio? Noi cerchiamo sempre di risvegliare gli archivi li interroghiamo, quindi l'archivio torna ad essere un materiale che in qualche modo dialoga con il contemporaneo, quindi è riattualizzato, quindi convivono all'interno del film, non necessariamente per assonanza, ma a volte anche per dissonanza. Il lavoro di ricerca è stato fondamentale e lungo, ma meraviglioso, perché abbiamo collaborato con circa 15 archivi europei, preziosissimi, da quelli italiani, in Luce, la Cineteca di Milano, la Cineteca di Bologna, al Life Museum di Amsterdam, all'Imperial Museum, la Cineteca francese, quella svizzera, cecoslovacca, insomma un mondo ampio e anche molto generoso, perché insomma, sono archivi stupendi. I nostri archivi sono per lo più di cinema scientifico e sono archivi che vanno dal protocinema fino agli anni 50 del Novecento. Il primo atto, quello di Bestiari, è, come dicevamo prima, era appunto un film quasi esclusivamente di archivio, ma gli archivi entrano anche in erbari e in lapidari, non soltanto archivi cinematografici, ma anche archivi documentali come l'erbario di guerra nella fine di Erbari, che appunto racconta una storia meravigliosa di un giovane botanico chiamato a combattere durante la prima guerra mondiale, che poi muore durante i combattimenti, ma durante le battaglie, insomma tra mine e bombardamenti, raccoglieva fiori, quindi andava creando un suo erbario personale, e alla sua morte il papà l'ha chiamato erbario di guerra e l'ha donato all'Orto Botanico. E quindi insomma sì, gli archivi sono parte del nostro film, quasi non è neanche proprio necessario alla fine capire cosa abbiamo girato noi e cosa appartiene alla storia del cinema. Ci sono anche archivi nostri personali, archivi che vengono dai nostri film, ma del passato, ci sono archivi sonori. È una forma di riutilizzo per ridare un senso alle cose, anche per ridare un senso alla nostra posizione nel mondo. Cioè è un film diviso in tre atti, ma è un film unico, con un unico disegno drammaturgico. E nello sviluppo tra il primo e il terzo atto il film dà il meglio di sé, sono degli atti che si concludono in se stessi, ma il film ha il suo respiro nella durata intera. Su quali elementi avete voluto focalizzarvi? Ogni capitolo ha un sottotitolo. Il secondo capitolo si intitola Erbari, la cura. Questo aspetto della cura è stato una grande linea per tutto il film, forse perché l'abbiamo pensato durante il Covid, cioè in un momento in cui era molto chiaro quanto gli uomini dovessero prendersi cura del mondo circostante, cosa che poi dopo nel giro di pochi anni è subito passata. Però la cura proprio ci ha aiutato per tutto il film, ed è una cura che è veramente una cura nella seconda parte, è una cura che è un po' una cura crudele nella prima e poi si trasforma invece in un altro viaggio ancora nella terza parte. Perché, come diceva Massimo, comunque il film è veramente un viaggio attraverso questi tre mondi. Che tipo di uscita sarà? È un'uscita che farà viaggiare il film in tutta Italia, perché partiamo da Milano, il 7 poi saremo a Roma, a Novo Sacher, poi saremo a Firenze, a Bologna, a Pescara, ad Aosta, a Torino, a Palermo, a Catania, a Venezia, Padova, Pordenone, Gorizia, insomma saremo in tantissime città italiane, poi torneremo a Milano, torneremo anche in altre città, e quindi è un'uscita diciamo tour, perché insomma la durata del film, 3 ore e mezzo, sicuramente agli esercenti nella programmazione della giornata, ovviamente crea dei problemi perché devono rinunciare sicuramente a uno spettacolo. Ovviamente un film dura 2 ore, quindi questo dura quasi il doppio. Però c'è una risposta per ora molto molto positiva. Noi sicuramente fino a novembre accompagneremo il film e poi invece il film proseguirà il suo viaggio da solo, perché noi abbiamo intenzione di metterci a lavorare al nuovo progetto. Però sì, a Venezia il film è stato accolto molto molto bene sia a livello nazionale che internazionale, e quindi gli esercenti hanno chiesto il film e riusciamo veramente ad andare in tutte le regioni d'Italia. Ci date tutti i riferimenti web per saperne di più? Il riferimento migliore è Film TV, perché l'altra particolarità di questo film è che il film è distribuito dall'Istituto Luce, ma Film TV lo ha scelto come film di questo nuovo progetto che è iniziato, che si chiama Il Corpo, in cui accompagna l'uscita del film, lo sostiene sui canali social, sulle riviste, non solo, e quindi il riferimento migliore è andare sulle pagine Instagram e Film TV. Il documentario Bestiari, Erbari, Lapidari, in tour nei cinema da sabato 5 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento ai registi Massimo D'Anolfi e Martina Parenti. Alla prossima! Ciao, grazie Federico, a presto. Con Pietro Liberati di Trent Film, che distribuisce il film Juniper, un bicchiere di gin di Matthew Saville, al cinema da giovedì 3 ottobre 2024. Ben trovato! Grazie Federico e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Raccontiamo brevemente questo film. Juniper, un bicchiere di gin, racconta la storia di un ragazzo piuttosto problematico, Sam, che ha una nonna, diciamo, terribile, la classica nonna inflessibile che è un topos anche di un certo cinema. E questa nonna gli piomba in casa perché ha avuto un infortunio, una caduta, non si può muovere, e quindi gli piomba in casa in Nuova Zelanda assieme alla sua infermiera, sconvolgendo la sua vita e quella di suo padre. Praticamente in questa famiglia, formata da questi 3 individui, nonna, padre e madre, non c'è dialogo da molti anni, e la presenza della nonna poco a poco cambierà gli equilibri e anche le vite di tutti e 3 i componenti, nonna compresa. Cosa avevi apprezzato di questo film? È un film che racconta una storia in fondo molto classica, ma lo fa con uno spirito, un'asciuttezza e una mancanza di retorica e di cedimenti che vengono anche supportati dalla veramente magnifica interpretazione di Charlotte Rampling nel ruolo della nonna. Questa asciuttezza, questa capacità di racconto così lieve, così autentica, è veramente una marcia in più per questo film, e conquista subito sin dalle prime scene e arriva con grande coerenza e con grande umanità fino al finale, assolutamente lasciando il pubblico, chi guarda il film, veramente conscio di aver visto una storia bella da raccontare, bella da vedere e con uno spirito che non si vede tutti i giorni. Che percorso ha avuto all'estero? Il film è stato prodotto in epoca di Covid e quindi ha avuto, come tanti film di quel periodo, una vita accidentata lì per lì. Era importante farlo uscire in sala il più possibile, anche perché la stessa Charlotte Rampling ci tiene molto, perché il ruolo di questa nonna terribile è un po' ricalcato per certi versi su quello che è il suo passato sia di attrice che di icona. Infatti Ruth, questa nonna protagonista, è una ex fotografa di guerra che ne ha vissuto di tutti i colori sostanzialmente, ha girato tutto il mondo, ha avuto esperienze di tutti i tipi, ha vissuto una vita piena e adesso vive anche nella memoria di un passato glorioso di icona. È un po' come Charlotte Rampling, è un pezzo importante e irrinunciabile di storia del cinema degli ultimi 50-55 anni, ma è allo stesso tempo anche un'icona di stile. Del regista Matthew Saville cosa sappiamo? È sostanzialmente un esordiente nel lungometraggio, ma ha un passato anche di attore, di sceneggiatore. Tra le altre cose ha recitato anche nella saga del Signore degli Anelli, dove compare anche uno dei 3 protagonisti, che è Martin Sokas, che veste i panni del padre di Sam e del figlio di Ruth. Che distribuzione sarà? Usciremo subito in un buon numero di copie di città e poi siamo convintissimi che il film farà un bellissimo percorso in sala, perché abbiamo già effettuato diverse anteprime selezionate dalla fine di luglio in avanti, incontrando una grande affluenza e un grande interesse, quando non entusiasmo addirittura, di pubblico. Molto spesso noi accompagniamo i film all'inizio della loro vita fisicamente in giro per l'Italia, quindi abbiamo sentito una grande emozione alla fine delle proiezioni delle anteprime. Siamo sicuri che anche adesso che il film esce in tutta Italia sarà la stessa cosa per il pubblico. Tutti i riferimenti web per sapere dove cercarlo? Il nostro sito internet è www.trentfilm.it per avere proprio le informazioni essenziali e via via le informazioni in aggiornamento sui nostri social, su Instagram e Facebook. Il film Juniper, un bicchiere di gin di Matthew Saville, al cinema da giovedì 3 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento al distributore Pietro Liberati di Trent Film. A presto! A presto, grazie a voi! Con Matteo Pavesi per presentare il documentario Geographies of Solitude di Jacqueline Mills, in esclusiva alla Cineteca Milano Arlecchino da sabato 28 settembre 2024. Ben trovato. Grazie di questo invito su questo, direi, UFO nell'offerta dei documentari internazionali, perché si tratta di un documentario che ha diverse corde, a partire dalla sua protagonista Zoe Lucas, che è una ricercatrice che vive da 40 anni su un'isola di fronte al Canada, un'isola abitata esclusivamente da cavalli selvaggi che studia e da insetti che studia, ed è un punto di osservazione molto molto interessante sul mondo attuale. Però non è un lavoro, quella della Mills, sull'esperienza di questa studiosa, folle, amabile, ma è un documentario sul mistero della vita e sulla bellezza anche delle creature più piccole, e la Mills è capace di raccontare con la sua macchina i dettagli, le espressioni più sottili, e di portarci verso un luogo che non è solo la visione ma anche la riflessione sulle cose. Il film poi è una sorta di tela in cui la regista sperimenta cinema, ma sperimenta anche soluzioni grafiche, artistiche, che combinano nel racconto dell'esperienza di Zoe Lucas e della sua esperienza sul campo in questa isoletta. Però i contenuti sono diversi e devo dire che mi capita raramente, però ci sono dei materiali che a volte sono loro che cercano noi e ci incontrano, e in questo caso è proprio capitato così. Questo film è un film che ho incontrato in modo del tutto casuale, mi è stato mostrato da un amico ed è come se fosse un invito a presentarlo dovunque io potessi. È stato come quasi un innamoramento di questo materiale che io ritengo magico, ha qualcosa di assolutamente magico. Io non so quanto al pubblico piacerà questo documentario, però sicuramente è un'esperienza nuova, assolutamente sì. Cos'altro sappiamo di Jacqueline Mills? Sappiamo poco, nel senso che oltre a essere una regista molto giovane, ha realizzato prima di questo lavoro, che è il suo importante, un mediometraggio molto personale. Lei utilizza la pellicola, non usa video, per cui si costringe quando gira a pensare molte volte prima di dare il ciak, e per cui lavora con grande riflessione rispetto alle immagini, rispetto ai contenuti. Sono scelte tutte molto azzeccate, perché tutte molto pensate. Non c'è quel monte ore sterminato su cui poi normalmente si fanno i tagli di montaggio, ma presumo, da com'è il film, che ci sia una costruzione molto attenta, molto studiata, di una grande osservatrice del mondo. Ci sono delle immagini di questi cavalli selvaggi, le riprese di questi cavalli su quest'isola nelle nebbie della mattina hanno qualcosa davvero di aurorale, come la nascita del mondo o, ahimè, forse la fine del mondo. Ecco, il film ha avuto un riconoscimento molto importante al Festival di Berlino nella sezione Forum, che è una sezione dove si trovano film, documentari, quelli un po' più avventurosi, sperimentali, dove si trova la novità, dove si trova il cinema che probabilmente vedremo in futuro. Ebbene, questo film della Mills è stato il vincitore di quella sezione. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Su Cineteca Milano, www.cineteca Milano, sul sito della Cineteca trovate la programmazione che si avvierà il 28 settembre, quindi sabato alle 21, e poi il film avrà altri passaggi a seconda un po' anche delle risposte, e di settimana in settimana verrà collocato, riprogrammato nel palinsesto dell'Arlecchino. Il documentario Geographies of Solitude di Jacqueline Mills, in esclusiva alla Cineteca Milano Arlecchino, da sabato 28 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Matteo Pavesi. A presto! Grazie, a presto a tutti. Con Fabio Del Greco, regista del film Il poeta perduto, al cinema da mercoledì 2 ottobre 2024, ben trovato. Grazie Federico, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Raccontaci di questo film. Dunque, Il poeta perduto, un film che ha richiesto abbastanza tempo per essere finito, perché mi sono dedicato a una piattaforma di streaming di film indipendenti e quindi l'ho girato molto lentamente. Racconta la storia di Dante Mezzadri, che è un uomo che sognava da ragazzo di fare il poeta, e poi un suo amico è diventato un poeta famoso, mentre lui è rimasto incastrato, insomma, in una vita che non ama affatto, una moglie che non riconosce più come moglie, che gli è proprio soffocante, e un lavoro da impiegato in una multinazionale in cui non si ritrova affatto. Quindi, insomma, è un uomo che vive in una prigione esistenziale. E nel film la poesia vuole essere un po' una metafora di quella dimensione di vita che un po' tutti cercano, una dimensione che spesso noi troviamo insoddisfatta e che cerchiamo di raggiungere, a cui aneliamo. Ed è un po' la vicenda di questo personaggio che poi, nel tentativo di rincontrare appunto questo suo amico che non vede da 20 anni, che è diventato uno scrittore e poeta famoso, fa tutto un percorso di evoluzione spirituale e esistenziale e vuole capire come mai lui è diventato famoso. Quindi arriva in tutti quei luoghi che erano teatro, insomma, dei loro incontri giovanili, però questo suo amico non si presenta mai per una segna di impegni. Il film inizia che lui già vaga per le spiagge di Ostia e viene continuamente recuperato da un collaboratore, segretario della moglie, che viene mandato a riprenderlo quasi come un poliziotto per riportarlo a casa. Quindi ecco, un film sulla libertà e sui sogni giovanili che non esistono più, che non riusciamo a mantenere, il tentativo di ritrovarli, ed è anche un film su come l'immaginazione crea la realtà. Questo nel finale sarà svelato, e appunto è una riflessione su come tutto ciò che ci circonda sia in fondo frutto dell'immaginazione umana, che è anche la salvezza ed il modo per mantenere e raggiungere i propri sogni, insomma. Come nasce l'idea, il progetto di fare questo film? Come nasce, se lo ricorda più il mio collaboratore, lo scrittore Massimiliano Perrotta, spesso mi ricorda le cose che io ho completamente rimosso. Però ecco, l'idea di base era innanzitutto fare un film su un personaggio che vagabondava, quindi sfruttare un po' tutta una serie di scenari del litorale romano soprattutto per fare un film molto figurativo, molto curato nell'aspetto delle inquadrature, delle immagini, con la luce naturale intorno al faro di Fiumicino, il litorale di Ostia. Quindi da questo punto di vista volevo fare un film un po' arcoschiano, ovviamente con tutta l'umiltà del caso, però cercare di fare dei quadri molto pittorici, con un ritmo lento. Poi nasce anche da un percorso un po' di crescita personale intorno al tema appunto dell'immaginazione, dell'interiorità e di come l'immaginazione e delle convinzioni personali possono creare poi la realtà con dei testi tipo quelli di Neville Goddard, altri testi di crescita personale, insomma Napoleon Hill e soprattutto un altro che si chiama La scienza della ricchezza di David Watts, dove il tema non è ovviamente la ricchezza materiale ma quella interiore. E questa percezione, questa consapevolezza mi ha messo voglia di realizzare questo film dove c'è tutto appunto una riflessione su come tutto ciò che ci circonda sia frutto dell'immaginazione umana, cioè il seme, l'embrione viene sempre piantato dall'immaginario di qualche uomo che poi si trova a costruire quel palazzo, quella città o a fare una determinata azione. Quindi il film in fondo è anche una riflessione oltre che sulla libertà e sulla voglia di raggiungere i sogni a cui ci sentiamo portati e che invece la vita ci ha portato ad altro, anche il conflitto che c'è dell'immaginazione umana, che molto spesso le persone non sono consapevoli di questo, che in realtà poi ciò che pensiamo è ciò che realizziamo. Questo si materializza nel corso di anni. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove andare a vederlo? Su Roma, in poche sale, sono sempre più monopolizzate, specialmente dopo il Covid, sono diventate delle vere e proprie succursali del cinema mainstream e quindi è diventato totalmente impossibile far uscire queste piccole opere indipendenti, realizzare allo stato artigianale. Quindi soprattutto lo potranno vedere su Indicinema, che è la piattaforma che ho creato, insomma, dedicata al cinema indipendente. Per indipendente si intende tutti quei film che non hanno un apparato industriale, quindi che possono essere realizzati anche a costo zero. Quindi lo possono trovare lì dal 3 ottobre, in streaming, facendo l'abbonamento. Per il resto, in cinema sparsi. Il film Il poeta perduto al cinema da mercoledì 2 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Fabio Del Greco. A presto! Grazie, gentilissimo. Ci sentiamo. A presto. Il regista Mimmo Calopresti sul suo documentario Cutro, Calabria, Italia, su Rai 3 giovedì 3 ottobre 2024 e su Rai Play per 2 settimane. Ben trovato. Ben trovato a te, ben trovato, eccoti qua. Dimmi. Cos'è questo lavoro? È un documentario che così è nato dopo un po' che è successa quella tragedia a Cutro, una tragedia veramente forte, di immigrazione, 100 morti su 200, su questo caicco, no? Questa barca scassata che girava nel Mediterraneo, poi come molti altri di quelle barche lì, no? Approdano lì in Calabria, e questo ha trovato mare mosso, questo, quello, quell'altro, e mi sono andato a sbattere su una cosa di sabbia e c'è solo tragedia. Una tragedia forte, perché 100 morti, molti bambini, donne, madri. Allora ho detto, vabbè, bisogna che io la storia la racconti un po', perché tanto c'è stata una bella dimostrazione di solidarietà dei calabresi che sono andati di scuola a spiaggia, cercando di dare una mano, cercando di occuparsi di quelli che erano rimasti in vita. Insomma, mi sembrava una cosa bella, no? Tutti i discorsi che si fanno contro gli immigrati, lì per un attimo c'è stata un'idea di solidarietà, no? Che è scattata forte da parte dei sindaci, dei paesi. Insomma, ho detto, vabbè, bisogna che la racconti questa storia, soprattutto perché quando arrivano queste storie succede che si parla dell'incidente, che si parla se bisogna salvarli o meno, si parla di mille cose, di questioni politiche, ma mai si conoscono le storie di persone che sono sopra queste barche. E su quella barca lì c'è una storia incredibile, con tutta gente che viene dall'Afghanistan, dalla Siria, alcuni palestinesi, insomma. Non è l'immigrante classico, no? Di cui uno si immagina, eccetera. C'è la storia di una ragazza afghana, 19 anni, che si è messa su quella barca per venire in Europa, per andarsi in America addirittura, pagando 5.000 euro per il viaggio, perché in Afghanistan lei non poteva studiare, aveva 19 anni, voleva fare l'università, ma le donne in Afghanistan non possono studiare. Su quella barca c'è veramente il mondo scassato che c'è in questo momento in giro, insomma. E quindi anche vedere questi immigrati che, ecco, hanno bisogno di andare nei loro paesi, hanno bisogno di essere accolti, hanno bisogno di trovare nuove vite. E purtroppo molte volte, ormai molte volte, il Mediterraneo diventa il posto dove non riescono a sopravvivere neanche. insomma, è molto grave quello che è successo a Cutro e quello che continua a succedere, perché poi dopo Cutro ci sono stati altri. Racconto quello che è successo tecnicamente, ma soprattutto cercare di raccontare le vite di questa persona. Vale la pena di raccontare le loro storie. Come lo hai strutturato? Sono andato su questa spiaggia, ho incontrato quelli che erano intervenuti subito, ho incontrato dei giornalisti che avevano conosciuto dei parenti, delle persone che c'erano solo, che erano tutte persone che hanno cercato di raccontare quello che era successo, come le persone si sono messe in moto per dare una mano, no? Per recuperare questi cadaveri che erano finiti in mare, non si riuscivano, che c'era mare morso, alcuni non sono mai più recuperati, no? C'erano alcuni che sono dispersi. Quindi sono io che vado in giro a cercare queste storie, queste persone, la verità di quello che è successo lì quel giorno. E poi ci ho mischiato dentro una cosa molto importante, perché a Cutro, proprio lì, quasi tanto che la spiaggia si sono raggiunta, Pasolini raccontò il Vangelo secondo Matteo, c'è un momento in cui c'è la pesca degli uomini, Gesù Cristo dice, lui erano pescatori di uomini, no? Un po' come è successo di quei poveracci che erano esattamente su quella spiaggia oggi. E con la profezia di Pasolini, che da lì dagli occhi azzurri, doveva raccontare la poesia che sarebbero sbarcati a Cutro, quindi quanti decine e decine e decine di anni prima aveva capito quello che stava succedendo a Pasolini, no? Quindi ho mischiato questa parte di Pasolini che aveva profetizzato quella cosa di Cutro attraverso il Vangelo secondo Matteo, poi sono le immagini del Vangelo, c'è la signora che è ancora in vita, che ha fatto Maria, no? Che ha fatto la madre di Cristo, che si è fatto raccontare come Pasolini l'aveva messa in mezzo, no? Questa cosa. Quindi ho mischiato questi due livelli di cinema, se vuoi di cinema verità e di cinema di funzione attraverso Pasolini. Che circuitazione gli darai? Andrà in onda su Rai 3 il 3 di ottobre, perché c'è la giornata della memoria sugli sbarchi, eccetera. Ma uscirà anche nei cinema, nel senso che uscirà in un gruppo di cinema il giorno che c'è la giornata della tragedia. Me l'hanno chiesto molti cinema, perché i documentari in questo momento hanno la loro vita, non hanno forza. E poi l'argomento è di grande attualità, capito? Ci sarà il processo tra un po', quindi sarà l'attualità per molto tempo. A presto! Grazie. A presto. Il regista Mimmo Calopresti sul suo documentario Cutro Calabria Italia su Rai 3 giovedì 3 ottobre 2024 e su Rai Play per 2 settimane. Con Jay Weisberg, direttore artistico della 43esima edizione delle Giornate del Cinema Muto a Pordenone dal 5 al 12 ottobre 2024, ben trovato. Grazie Federico, buongiorno. Raccontiamo cos'è questo festival. Il più grande festival del cinema muto nel mondo e anche ovviamente il più importante. È un festival che si tirerà per una settimana, dalle 9 della mattina fino al mezzanotte, sempre con musica dal vivo, per ogni film. Quest'anno abbiamo più di 200 film, ovviamente lungometraggi e anche cortometraggi, da tutte le parti del mondo, soprattutto quest'anno. Perché, per esempio, abbiamo 2 programmi dedicati ai paesi meno conosciuti anche per i cineasti, e cioè America Latina, in cui abbiamo 10 film da 10 paesi, tipo Argentina, Cuba, Ecuador, Brasile, Paraguay, e anche un'altra sezione dedicata ad Uzbekistan. E con questo abbiamo 6 titoli, 6 lungometraggi, è molto interessante, in cui si può vedere l'influenza del montaggio sovietico, ma anche sempre con un base dentro la cultura uzbek. Abbiamo anche frammenti, per esempio, la maggior parte del cinema muto è tutto perduto, parliamo sempre di 75%, ma questo è solo per gli Stati Uniti e l'Europa, qualche paese d'Europa. Ma quando parliamo, per esempio, di un paese tipo Brasile, ma anche Giappone, ma anche Polonia, per esempio, è molto, molto di meno, e comunque, nonostante questo, ce ne sono sempre le scoperte e anche, ovviamente, le restauri. Come saranno articolate le giornate? Il festival comincerà sabato 5 ottobre con una preapertura a Sacile il 4 con una commedia di Harold Lloyd, una commedia bellissima, Girl Shy, che si terrà anche durante le giornate, durante il festival, il giovedì

il contorno del festival è anche diventato molto interessante nel frattempo, perché non è solo le proiezioni dei nostri corti, la premiazione, ma abbiamo aggiunto tutta la situazione di realtà virtuale. Il festival sarà in zona isola, un po' in giro a zona isola, focalizzato soprattutto al Teatro Fontana e alla Stecca 3, e in più in qualche negozio dell'isola ci saranno delle postazioni in realtà virtuale, per cui abbiamo aggiunto questa cosa. Abbiamo aggiunto delle talk con i registi, insieme all'Istituto di Cultura Polacco c'è un festival polacco, per cui anche nei cortometraggi di questo festival polacco che si chiama Krakow Film Festival. Abbiamo tante cose in più che potete scoprire anche sul nostro sito www.maxtremin.com, e anche in collaborazione con Mubi faremo vedere una serie di cortometraggi di Isabella Rosellini, che sia è stata la regista che l'attrice, che ha fatto dei corti di meno di 3 minuti, e siamo in collaborazione con Mubi e le proietteremo all'Anteo. Per cui in realtà siamo un po' sparsi per Milano, zona isola, Anteo. Poi c'è anche una parte di programma che abbiamo fatto insieme all'Università Cattolica, dei ragazzi dell'Università Cattolica, di occuparci della parte dei festival in un modo sostenibile, perché comunque è un tema che durante 4 anni del nostro festival abbiamo visto che molti dei registi sono interessati in tutto quello che è sostenibile, il clima e la sostenibilità in sé, ma non solo i registi, cioè tutto il mondo parla di questa cosa qua, e poi le persone lo fanno anche molto poco, per cui abbiamo dato molto spazio a tutta una parte di sostenibilità, riferiti proprio ai festival, riferiti alle settimane che ci sono a Milano, è pieno di Fashion Week, Design Week, e tutti questi eventi devono comunque pensare di farlo in modo responsabile. Il miglior festival è quello che non si fa, il più sostenibile è quello che non esiste, però ci sono delle possibilità, degli accorgimenti che ti possono portare a farlo in modo più responsabile, ed è quello che noi stiamo cercando di fare. Com'è stata la scelta artistica? Noi abbiamo questa cosa importante per me, che è stata una scoperta, che facendo questi film così corti, noi in realtà abbiamo un'attualità molto attuale. Noi riceviamo dei film di vario genere, dall'animazione ai documentari, a dei film veri e propri, cioè con tutti i crismi del cinema, per dirlo in qualche modo, ma sono sempre molto attuali, molto quello che sta succedendo ora. Perché per la produzione di un film di 3 minuti non hai bisogno di un anno e mezzo per produrlo e farlo. Per cui la nostra scelta artistica di come vengono selezionati, a parte che abbiamo dei selezionatori professionisti, e poi dopo che vengono selezionati i film vanno a una giuria internazionale che ogni anno cambia, mentre i selezionatori rimangono, per cui fanno parte della scelta artistica del nostro festival, e vedere la realtà, non so, è come se vederla, la realtà 5 minuti dopo che accada, e per cui è quello è il tema molto interessante in questo festival. Se venite al festival vedrete quali sono i temi veramente molto attuali che toccano le persone nel mondo, li vedrete in un modo artistico e in un racconto cinematografico, e per cui la scelta artistica è sempre quella, una fotografia cinematografica della realtà molto attuale. Quarta edizione del Festival Cinematografico Max Tremin a Milano dal 4 al 6 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Martina Schmidt. A presto! Grazie mille, buona giornata e benissimo. Vieni anche tu, ti aspettiamo, ti offriamo un bicchiere di vino, potresti fare anche da mangiare. Con Joana Fresu de Azevedo, direttrice artistica della 21esima edizione del Festival Cinematografico 16 Corto a Forlì dal 4 al 13 ottobre 2024, ben trovata. Ciao, buongiorno a tutti. Sono, come dicevi giustamente, co-direttrice artistica, insieme a me il fondatore del Festival, Gianluca Castellini. Spieghiamo questo Festival, cos'è? 16 Corto è alla sua 21esima edizione, festival di cortometraggi nato anche semplicemente, come dice il nome, da una domanda: cosa succedeva a chiedersi cosa fosse un cortometraggio. Da lì un evento ogni anno in crescita, riceviamo ormai quasi 4.000 cortometraggi ogni anno, e con importanti collaborazioni con festival nazionali come internazionali. Quest'anno ad esempio abbiamo una ricca selezione